Riprendiamoci lo sport. La riscoperta dello sport popolare in Italia. Di nuovo insieme a Riprendiamoci lo sport, la riscoperta dello sport popolare in Italia, l'inchiesta di Alessandro Canella con la collaborazione di Laura Zacchiroli. Dopo aver ascoltato la storia e i valori alla base dello sport popolare, buttiamoci a capofitto nelle esperienze presenti a Bologna. La nostra città infatti è particolarmente ricca di palestre e progetti guidati da principi quali l'antifascismo, l'antisessismo e l'antirazzismo, con l'obiettivo dell'inclusione sociale e dell'accesso allo sport per tutti. Come diceva in precedenza Cristiano Armati, il problema più grande che le realtà di sport popolare incontrano sulla loro strada è quello degli spazi. Non è un caso, quindi, se molte delle palestre popolari presenti a Bologna siano nate nei contesti dei centri sociali, occupati o in convenzione, e non è un caso se il lavoro che svolgono intervenga sui problemi del quartiere in cui sorgono. Una bella storia che vale la pena raccontare è quella della palestrina Beltrame, nata dalla collaborazione tra il VAC 61 di via Paolo Fabbri e uno dei luoghi dell'esclusione per antonomasia, il dormitorio attiguo al centro sociale. Lo sport quindi diventa uno strumento per includere e reinserire, come ci spiega Fabio Lepiane. La palestra popolare nasce più o meno 4 anni fa, in realtà nasce quasi per caso, nel senso che io e altre persone di VAG 61 o del dormitorio ci siamo trovati in quelle che attualmente sono le stanze che occupano la palestra, che prima erano l'ex drop-in appunto del dormitorio Beltrame. Un po' casualmente ci viene in mente di dire ma perché non ci facciamo una piccola palestra per gli utenti, così cerchiamo un po' di coinvolgere, di fargli fare qualcosa un po' di diverso da quello che fanno solitamente. Ovviamente poi da lì pian piano la cosa si è più sviluppata e sono arrivate altre persone che hanno aiutato il progetto a crescere, sono partiti i vari corsi più strutturati e si è arrivati più o meno al punto in cui si è adesso, appunto con i vari corsi qui a cui partecipano sia gli ospiti del dormitorio, ospiti di altre strutture della città e persone che invece non sono ospiti di nessuna struttura ma sono studenti, lavoratori, eccetera. Questo si inserisce poi in quello che era anche il progetto più largo del condominio Beltrame, che era appunto l'idea di trasformare il dormitorio non nel posto della marginalità e dell'esclusione, ma in un posto appunto in cui si può fare attività, in cui si può creare ricchezza, in cui ognuno può sfruttare le proprie abilità, le proprie conoscenze, e perché no, appunto, non solo un luogo in cui appunto si va a vivere quando non si hanno alternative e si è emarginati, ma anche un posto in cui si può recuperare tempo della propria vita in vari modi, tra cui anche ovviamente lo sport. Forse una delle attività che ha preso piede, che si è sviluppata meglio, ma non è l'unico progetto appunto del condominio Beltrame, c'è anche appunto la collaborazione col mercato della terra e altre attività di vario genere appunto che cooperano alla realizzazione di questo progetto ampio. La palestra, sì, diciamo che probabilmente è quello che è riuscito meglio forse a integrare chi vive dentro il dormitorio con chi invece vive all'esterno e a creare appunto un po' di contaminazione fra le due realtà. Attualmente noi abbiamo un corso di pugilato, di Muay Thai, di grappling e il corso di teatro e infine anche un corso di yoga. In totale, tra chi viene sempre, chi passa ogni tanto, saremo la 70, 80, comprendendo appunto studenti, lavoratori e utenti di varie strutture della città. Ovviamente ci sono anche momenti di autofinanziamento, principalmente a VAG, che ovviamente è la realtà di riferimento, o altri eventi anche all'interno del dormitorio. Poi ogni corso fa pagare una quota per il finanziamento, ovviamente chi non può permettersi di pagare anche la quota minima richiesta collabora in altri modi, appunto anche semplicemente allenandosi, passando quando c'è bisogno di fare lavori di manutenzione in palestra e simili. Fatta anche in modo appunto chi non può permettersi di pagare nessun tipo di prestazione appunto anche solo sportiva possa comunque partecipare ai corsi e allenarsi con tutti gli altri. Gli ospiti del Beltrame quando nacque la palestra come l'accolsero? Ovviamente all'inizio ci fu da lavorare un po' perché poteva sembrare una cosa solo per chi era esterno, un fastidio in più, ma anche solo un modo per esempio poteva essere rumoroso. Poi invece col tempo si è creata una collaborazione molto più stabile, la realtà è accettata, alcuni ospiti hanno partecipato e partecipano a alcuni dei corsi, altri sono coinvolti tramite piccolo contributo per le pulizie della struttura e quindi adesso siamo ampiamente integrati nella struttura del Beltrame sia a livello appunto degli utenti sia con invece i lavoratori stessi della struttura. Inizialmente appunto il progetto è stato condiviso con alcuni dei lavoratori della struttura stessa, quindi è sempre stato un po' un piano più con i lavoratori che con, diciamo, le istituzioni in alto. La palestra non rimane un modo di sopperire alle mancanze di welfare cittadino, ma è comunque un'opera anche di lotta dal basso, di organizzazione, che non vuole appunto sopperire alle mancanze del comune, ma è un'esperienza di un altro tipo. Con Cuba nel cuore ha fatto la storia del pugilato dilettantistico. Teofilo Stevenson, nato a Puerto Padre 60 anni fa, si è spento nella terra che più di ogni altra cosa ha amato. Vincitore di 3 ori olimpici e 3 mondiali tra il 1972 e il 1986, non ha mai voluto compiere il salto nel mondo professionistico, nemmeno quando gli fu proposto di combattere contro una leggenda come Muhammad Ali. Troppo fedele agli ideali della rivoluzione cubana, che considerava illegale lo sport professionistico, per accettare. Niente, infatti, riassume la vita e la devozione di Stevenson nei confronti del proprio paese come quando rifiutò la sfida con Ali per 5 milioni di dollari, perché l'amore di 8 milioni di cubani non aveva prezzo, per uno come lui, il vero simbolo di una box che non esiste più. Questa notizia del giugno 2012 ci ricorda la morte di Teofilo Stevenson, celebre pugile cubano e icona dello sport popolare. Le sue scelte personali e il modo in cui ha interpretato lo sport sono stati e sono tuttora il punto di riferimento per molti sportivi, come ci spiega Alessandro della palestra di XM24, intitolata proprio a Stevenson. Abbiamo pensato di intitolarla Teofilo Stevenson un po' per quello che rappresenta, sia per le sue gesta sportive prima di tutto, ma anche per che cosa ha rappresentato per il popolo cubano e per quello che poi ha dimostrato di essere. La sua famosa frase, che cosa sono 5 milioni di dollari al calore di 8 milioni di cubani, fa capire anche il senso rivoluzionario la carica rivoluzionaria che ha sempre avuto Stevenson nei confronti del popolo cubano, di totale lealtà e di antagonismo nei confronti del capitalismo americano e del blocco. Cuba ha sempre rifiutato il professionismo per questioni di mercificazione dell'essere umano, ha sempre cercato di tutelare i propri atleti lasciandoli sempre nella sfera del dilettantismo, diciamo. E Teofilo Stevenson è stato il portatore, perché ha vinto 3 Olimpiadi, 3 titoli mondiali, insomma è stato uno dei migliori atleti della storia di Cuba del pugilato amatoriale. Sono sempre stati contro la mercificazione delle persone e hanno rifiutato il modello, quello imposto dagli Stati Uniti o comunque dal mondo professionistico del pugilato, che tutela poco l'atleta e crea una spettacolarizzazione dello sport che fa più male che bene, perché come sappiamo il dilettantismo adesso si esprime sulle 3 riprese da 3 minuti, il professionismo sì, il titolo italiano sono 10 riprese da 3 minuti, il titolo mondiale sono 12 riprese da 3 minuti. Ci sono delle differenze enormi, abissali, sia sul piano della preparazione atletica ma sia sul piano proprio della sicurezza dell'atleta. Insomma, il pugilato è uno sport duro, non è per tutti e che fa male, e portandolo su un lasco di tempo più lungo i rischi aumentano, ecco. Sempre è stato un po' quello che Cuba ha portato avanti, non solo Cuba, ma fino al 91 l'hanno portato avanti tutti i paesi socialisti del mondo. I principi del pugile cubano guidano anche gli atleti della palestra di XM24. Sentiamo com'è strutturata. Noi siamo una palestra popolare totalmente autogestita, autofinanziata. I nostri valori portanti sono l'antirazzismo, l'antisessismo e l'antifascismo. Su questi valori fondanti qua che abbiamo creato, insomma, l'esperienza della palestra popolare Stevenson. Noi come palestra popolare Stevenson pratichiamo solo ed esclusivamente la box. All'interno della palestra di XM ci sono altre discipline, c'è tessuti, c'è yoga e quant'altro. E abbiamo uno zoccolo duro di 15-20 persone, però diciamo che nel periodo invernale arriviamo ad avere anche picchi di 40-45 persone in palestra alla volta. La nostra palestra generalmente è popolata da studenti, essendo una palestra autogestita ma totalmente gratuita, perché lo ripeto, noi lo sport lo pratichiamo, cerchiamo di smussare quel gradino sociale che trovi nella società, il fatto che comunque tu devi pagare per entrare, per andare a praticare una disciplina. Da noi questo non succede, è totalmente gratuito, autofinanziato, autogestito, e abbiamo una forte componente universitaria all'interno della nostra palestra, appunto i fuori sede che stando stretti coi soldi comunque hanno bisogno di praticare uno sport e si avvicina alla nostra palestra. Facciamo lezioni di autofinanziamento, facciamo sì feste, iniziative politiche, iniziative sociali, usiamo questi momenti qua sia di socialità ma anche di autofinanziamento. Comunque la nostra forza è proprio questo, il fatto di comunque di avere un'assemblea all'interno della palestra che si organizza per far sì che la nostra attività sportiva vada avanti. Creiamo questi momenti che non sono solo di autofinanziamento ma anche di socialità e di condivisione e di lotta soprattutto. Noi siamo all'interno dell'Assemblea Nazionale delle Palestre Popolari, si chiama K, Palestre Popolari Antifasciste. E niente, sì, c'è un coordinamento nazionale dove noi ci vediamo periodicamente, facciamo delle assemblee nazionali dove facciamo il punto della situazione, dove portiamo avanti tutta l'attività sia politica che sociale che sportiva delle palestre popolari. Una rete veramente vasta che cresce di giorno in giorno, ci sono un po' realtà di tutta Italia, passiamo da Milano, Torino, Bologna, Genova, Bergamo, Firenze, per scendere giù c'è Roma, Napoli, insomma si sta sempre allargando sempre di più a macchia d'olio. Se si esclude il calcio, a cui dedicheremo un momento particolare più avanti, la boxe è senza dubbio la disciplina più praticata nelle palestre popolari. Ma perché? Comunque la boxe è uno sport sempre stato affascinante, è sempre stato uno sport che ti ha sempre dato la possibilità anche di rivalsa, sia della propria vita, ma anche nei confronti di questa società. Io penso che i valori che porta avanti lo sport sono valori nobili e che la gente è attratta da questi valori qua, e sempre di più lo pratica, c'è un'esplosione soprattutto dello sport popolare, ma in generale del pugilato in Italia, sta avanzando tantissimo. Quest'anno per esempio per la prima volta vanno alle Olimpiadi delle donne, a Rio 2016, per dirti, c'è sempre un avanzamento della boxe negli ultimi anni, e questo avviene anche tra lo sport popolare. Da noi abbiamo avuto dei picchi con l'Assemblea Nazionale delle Palestre Popolari veramente grandi, ecco. Pistol shots ring out in a bar room night, into Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood, cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done, put in a prison cell. But one time he could have been the champion of the world. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight was about to go down, when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Un'altra realtà cittadina che pratica i principi dello sport popolare è la palestra e polisportiva TPO, centro sociale di via Casarini. A raccontarci la storia è Mario Cata. Sicuramente all'inizio la palestra del TPO è nata per un'esigenza soprattutto dei militanti, quindi di chi faceva l'attivista nel centro sociale TPO. Poi ci siamo accorti che comunque in quartiere, quindi nel porto, c'era l'esigenza da parte degli abitanti appunto del quartiere, e non solo, di praticare sport, praticarlo in una maniera più tranquilla, etica, no? Con valori come l'antisessismo, antirazzismo, antifascismo, che sono comunque fondamentali, valori importanti per la nostra realtà. Quindi abbiamo deciso poi di aprire un po' i corsi a tutti, la cosa è andata sempre meglio. Infatti ad oggi la polisportiva, quindi anche compreso il calcio, tutti i corsi della palestra eccetera eccetera, c'ha quasi 300 iscritti. Palestra, abbiamo corso di box, prepugilistica per adulti e prepugilistica under 18. Poi ci sono i corsi, c'è il corso di tessuto aereo, anche questo per minorenni e per adulti. Poi c'è il corso di danza afro, il corso di Muay Thai. Poi appunto c'è la squadra di calcio, anche lì adulti e minori. Particolarmente importante è il lavoro con i ragazzi under 18, sia in chiave educativa che per il recupero del disagio manifestato dagli adolescenti. I progetti under 18, sia nel calcio, prima ancora nella box, nella prepugilistica e nel tessuto aereo, sono stati appunto ideati da noi, però appoggiati sempre da varie associazioni, dal quartiere e dal comune di Bologna. Quindi è stato molto importante ed è tuttora anche molto importante per noi da un punto di vista relazionale. Dall'altro punto di vista, avviare allo sport i ragazzi dai 12 ai 17-18 anni con delle idee comunque di uno sport libero, dove la cooperazione, no, la solidarietà, siano la condivisione, siano la base di tutto, dove la sana competizione vinca e che non ci siano, no, tutti quei sotterfugi che magari ci hanno insegnato nelle scuole calcio quando eravamo noi più piccoli, oppure anche magari in altri sport. Insomma, da noi questo non, cioè, proviamo almeno a indirizzare i ragazzi da questo punto di vista verso una sana competizione, un'etica sportiva, perché per noi è fondamentale appunto che si cresca con queste idee a prescindere dallo sport. Nel calcio il nostro settore giovanile non è al Porto, al quartiere Porto, ed è a Navile, quartiere Navile, quindi noi ci alleniamo al Pizzoli, giochiamo al Pizzoli, e lì secondo me c'è ancora più una domanda ancora più forte rispetto al quartiere Porto. Quando abbiamo aperto il settore giovanile circa un anno, due anni fa, abbiamo avuto un sacco di richieste, c'è stato un sacco di domanda. Questo è il terzo punto fondamentale, non si può far finta di niente. In questo senso, lo sport può essere un efficace strumento anche per contrastare l'abbandono scolastico, come ci spiega il presidente dell'AIX di Bologna, Serafino D'Onofrio. Il fatto di vedere soprattutto dei ragazzi che hanno dei problemi, che hanno vissuto già magari periodi di abbandono scolastico, che riescono a trovare nello sport almeno un impiego parziale e con successo al loro tempo libero, è una cosa che ci dà grande soddisfazione. Il progetto Rocky Joe è forse il modo più chiaro per comprendere il tipo di lavoro sociale che viene fatto attraverso lo sport. Noi abbiamo un progetto molto particolare, si chiama Rocky Joe, vecchio manga giapponese, una storia paradigmatica. Un bambino povero in Giappone sta per finire nelle mani della mafia giapponese, temibile, contro un maestro di box. Incomincia il maestro a insegnargli questa disciplina sportiva, e il ragazzo riesce a quel punto a avere grandi soddisfazioni, diventa un campione, ma soprattutto esce fuori dal giro losco nel quale stava precipitando. Questo è il fumetto Rocky Joe, noi l'abbiamo italianizzato, sono sparite le H, le Y, è diventato Rocky Joe, così come si legge. E è un progetto che ha lo stesso spirito, partito dalle nostre palestre di box, l'AIX a Bologna in provincia, l'associazione che ha la maggior presenza di pugilistiche, vi faccio i nomi perché sono le più importanti della città: la storica pugilistica Tranvieri, che ha oltre 60 anni di attività, la Box Pilastro, Bologna Box alla Bolognina, la Palestra Regis, e poi abbiamo in provincia la Box di Medicina, la Box di Budrio, quindi è una presenza molto, molto radicata. Quindi abbiamo iniziato con le palestre di box, ma poi l'abbiamo allargata alle attività di arti marziali, agli sport urbani, alla lotta olimpica e al sollevamento pesi. Si tratta quindi di un progetto che individua dei ragazzi che hanno problemi di inserimento sociale, di abbandono scolastico, ci vengono segnalati da associazioni, dal comune, dai servizi sociali, e che si avvicinano alla box o a questi altri sport senza costi e iniziano a frequentare le nostre palestre. Questo è il progetto sportivo. Parallelamente però c'è quello culturale, abbiamo ideato un blog che si chiama Rocky Joe, anche quello, che si occupa in genere di problemi non solo sportivi, ma problemi dei ragazzi a Bologna, quindi la musica, i problemi del sesso, i problemi del bullismo, tutte le questioni, i tempi, la scuola, il divertimento, eccetera. E quindi questo blog è animato dai ragazzi del servizio civile, che grazie al progetto Rocky Joe riusciamo ad utilizzare durante l'anno, e questa è una cosa che ci dà grande, grande soddisfazione, perché vediamo arrivare ragazzi in grande difficoltà e una parte si fermano e incominciano ad avere successo. Noi attiviamo circa 30.000 tessere sportive, poi ne abbiamo un numero molto maggiore, circa 60.000, che sono quelle che seguono soprattutto le attività culturali, soprattutto il mondo della musica, che è quello nel quale abbiamo una presenza molto, molto capillare con le associazioni musicali più importanti. In questo c'è calcio, c'è basket, c'è nuoto, c'è arti marziali, ci sono molte attività olistiche. Negli ultimi anni stanno avendo un grande successo, soprattutto per le persone che partono dai 20 anni in su. Anche le controculture giovanili, con i loro sport spesso invisi, trovano uno spazio di espressione sportiva nella nostra città grazie allo spazio OZ. E lo spazio Oz di via Stalingrado, un'ex fabbrica recuperata grazie all'intervento di un'altra associazione senza filtro alcuni anni fa. Subentrato questa associazione Eden ne ha fatto, l'ha fatto diventare il più grande parco urbano per gli sport urbani d'Europa. Abbiamo circa 7.000 metri quadri a disposizione, si fa il parkour, si fa lo skate, si fa il roller, l'arrampicata, la mountain bike, i tessuti aerei, lo slackline, quindi sono sport che normalmente vengono visti male, per i quali non c'è tanto spazio. In questo spazio, questo è il paradiso, è il paese dei balocchi per queste attività. Tenete conto, lo spazio Oz ha 3.000 praticanti sportivi di queste discipline, 3.000 persone l'anno, ogni anno 3.000 persone nuove che vanno. Sta soddisfazione grande anche perché lì incominciamo ad avere dei veri campioni, dei campioni di skate, ragazzi di 14, 15, 16 anni che partecipano a iniziative internazionali, che vanno lì e vincono. E quindi questa è una cosa che ci dà grande entusiasmo. Tornando alle palestre popolari, l'idea alla base di queste strutture in realtà non è nuova. Quando Bologna era un laboratorio politico di avanguardia a livello nazionale e internazionale, esperimenti del genere furono già tentati, come nel caso della palestra popolare di via Gandusio, di cui Stefano Bonora, presidente dell'attiguo Circolo Arci Guernelli, ci racconta la storia. La palestra esiste da quando hanno costruito praticamente i palazzoni di via Gandusio 6, i palazzoni dello IACP. Ha avuto un periodo dagli anni 70, 80, fino a metà degli anni 90, in cui ha funzionato adiacente al Circolo Guernelli e in relazione al Circolo Guernelli proprio come palestra popolare, dove per palestra popolare si intende un discorso che non è legato alla normale fruizione, come siamo abituati a considerare oggi la fruizione delle palestre. Cioè per scolpire, per tonificare, per vivere meglio con se stessi, ma al contrario di vivere meglio con gli altri, cioè cogliere nello sport il significato più profondo di questa parola, cioè fare delle cose assieme che diano da un lato agevolino il fisico, eccetera, sempre nei limiti dell'attività normale, ma più che altro costruire relazioni con gli altri, quindi sport di squadra oppure condividere un momento in cui si fanno delle cose cose assieme. E quindi c'era la società ciclistica, c'era ginnastica artistica, c'era pallavolo femminile. C'è stato addirittura il padre della Comaneci per 4 anni a fare l'istruttore in questa palestra. Poi dagli anni 90 c'è stato un calo progressivo legato al calo progressivo che ha avuto il circolo, un lento spegnimento delle attività e la palestra poi è stata in stato d'abbandono dai primi anni 2000 fino adesso. Il taglio era essenzialmente lo stesso taglio delle persone che frequentavano il circolo, ovvero operai, figli di operai, cioè gli abitanti del quartiere San Donato, in particolare di quella zona, ma non solo, anche di tutto, in parte dal centro, venivano anche dalle zone prospicenti viali, eccetera, ma era tutta gente, addirittura allora non c'erano ancora le palestre a pagamento, eccetera, ma che non poteva permettersi percorsi individuali e sceglieva queste occasioni di incontro e di attività, insomma. Non solo, poi c'erano tutti i figli dei condomini, c'erano delle scuole che venivano e che avevano questa palestra come luogo dove fare l'ora di ginnastica, eccetera. Per cui insisteva sul quartiere e su una fascia che nel quartiere è quella che normalmente popola il quartiere San Donato, insomma, non è certo il quartiere dei Colli, diciamo. Negli ultimi anni, proprio per la spinta e la riscoperta dello sport popolare, è nata l'idea di recuperare quella palestra. È stato grazie all'Arci Provinciale, una collaborazione con me, che ero lì per fargli un progetto, un altro tipo di progetto, insomma, però c'era questa cosa già sul tavolo dell'Arci Provinciale, ci abbiamo lavorato un po', abbiamo presentato un progetto come Arci Provinciale alla Fondazione del Monte, un progetto complesso su San Donato che insisteva anche su tante altre cose. La Fondazione ha approvato la tranche del progetto che riguardava la palestra e la rimessa in funzione della palestra, e da lì è cominciato l'iter della ristrutturazione, con un finanziamento di 55.000 euro che erano preventivi sugli 85-90.000, però comunque è, come dire, di questi tempi grasso che cola, ecco. E quindi abbiamo pensato, da un lato, di andare avanti con l'inizio dei lavori e quindi di approfittare di questo finanziamento, e dall'altro vedere come e in che modo riuscire a trovare i soldi che mancavano. Abbiamo fatto diverse iniziative di autofinanziamento, continuiamo a farle, abbiamo aperto un sito su internet dove si può contribuire anche con soldi, proprio basta guardare sulla pagina Facebook del Guarnelli e si trovano le indicazioni, insomma, eventualmente, perché non è ancora finita tutta l'altra fila. Abbiamo chiuso i lavori dopo un anno quasi, facendo tutto la parte strutturale. Adesso manca il pavimento, che ha un costo su cui stiamo cercando di raccogliere i finanziamenti. La palestra sarà dunque intitolata Gino Milli, un'importante figura bolognese non solo per lo sport. La palestra popolare Gino Milli, perché verrà intitolata al mitico presidente dell'Arci Guarnelli per un 25 anni dietro fila, insomma. Era fra l'altro un partigiano, era un vicecomandante nella brigata di Dozza, per cui insomma era anche un personaggio a cui dobbiamo molto anche rispetto al passato. È stato il perno su cui ha ruotato tutta l'attività del circolo, che al tempo era stupefacente, insomma, anche rispetto agli altri circoli, ai pochi altri circoli che allora esistevano. Formazione dei giovani, corsi di avviamento professionale, insomma, si è inventato proprio e ha messo in opera delle cose che per il tempo erano avanti anni luce, insomma. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Fra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. L'inchiesta torna domani. Questa puntata è disponibile in podcast sul sito radiocittafugico.it. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E travolta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai, e vai che io sto qui e aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali, da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, c'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Arratata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, e al cinema ci tu. Zarra zazz, zazzara zazz, zazzara zazz, zazz, zazz, zazz, zazz, zazz, zazz.